Ci stavi dicendo che secondo te sul territorio di Napoli, no? Della reale di Napoli, della provincia Campi di Napoli, Fregrei, fa parte di Napoli, no? E del Vesuvio c'è una specificità territoriale? Cioè, è molto difficile poterlo, cioè, avere un'idea, come fartelo capire. Cioè, è talmente ricco di biodiversità, di modi di vivere, di modi di fare, questa provincia, no? Parlo dei paesi vesuviani, di Napoli giù. È un modo molto, molto complesso, molto, cioè, se tu dovresti, è difficile, soprattutto per me, trovare un punto dove tutti quanti possono convogliare, come fartelo capire, non trovo le parole adatte. Però Napoli è stata sempre così. La reale, cioè gli agricoltori della reale del napoletano, compresi i Campi Fregrei, insomma vesuviana, paesi limitrofi, Pomigliano, Brusciano, Mariano, è complesso. Cioè, pur per la diversità dell'agricoltura che si porta avanti, cioè per la diversità degli ambienti, dovuto al fatto, cioè, i Campi Fregrei hanno modi veri. Che sono, fanno tipi di agricoltura, insomma, fanno tipi di agricoltura diversa a Pomigliano. Pomigliano fa un tipo di agricoltura diversa da Santa Anastasia. Allora, tutte queste cose qua, no? Ti portano, si radicate diversamente sui territori. Non vedo, cioè, non lo so se ci può essere, capito, qualcosa, è complesso comunque. Non riesco a spiegartelo, però io trovo questa cosa che non viene eterogenea, capite? Che non è che ognuno di noi, insomma, sposa l'altra parte con facilità, capite? Ci sta questo fatto, naturalmente è un pensiero mio personale, che per esempio là di provincia, tipo Avellino, tipo Caserta, è nata cosa, capite? Ci sono areali dove si alleva solamente la bufala, dove si fa solamente il mais, e questo ti porta anche a ragionare, secondo me, cioè a radicarti in quel modo sul territorio, cioè attraverso quelle produzioni, attraverso quel, ti porta, è complessa, cioè tornando al fatto che tu non riesci a trovare il punto. Napoli è proprio complessa per questa cosa qua.